the books were found by the golden ones. E allora finalmente ce l'abbiamo fatta entrare in contatto col corteo. Allora, intanto dici a che punto siete, perché ci chiama un sacco di gente che vi vuole raggiungere. Allora, il corteo no, praticamente siamo ancora intorno a Via di Cerchi, abbiamo adesso imboccato Lungotevere, stiamo prendendo il tunnel che ci porta dall'altro lato di Lungotevere, però stiamo ancora qua intorno. Adesso non mi ricordo come si chiama il ponte che collega Lungotevere Aventino, diciamo, con Trastevere, con quel lato Trastevere. Però è quello dall'altra parte dell'isola Tiberina, per intenderci. Non so se è quello del Duca, però non vorrei dire fesserie, però insomma ci siamo capiti, ecco. Sì, ma guarda, siamo sopra Via di Cerchi, fondamentalmente. Esatto. Il pezzo di Lungotevere sopra Via di Cerchi. E poi mi immagino anche dalle firme che ho visto sotto al comunicato una presenza abbastanza imponente, no? Guarda, la presenza, allora, ci sta parecchia gente da fuori. Ho la sensazione che i romani stiano ancora tranquillamente arrivando verso il corteo, però già ci sono diverse migliaia di persone, ci sono molti camion, c'è un problema appunto un po' per far girare i camion e metterli sul Lungotevere, perché parecchi sono tir, però no, già siamo diverse migliaia di persone. Ma il corteo comunque è partito adesso, ora percorrerà il suo tragitto e poi torneremo di nuovo qui, faremo un giro sul Lungotevere e torneremo indietro sempre qua per questa sera. Ok, ci vuoi... Allora, io qua adesso, ecco, bravo. Sì. Ho una compagna che fa parte non soltanto del Forte Palestino, ma ha fatto parte dell'assemblea che ha organizzato questa manifestazione, quindi io lascerei il telefono a lei, almeno così facciamo anche un po' il punto su quelle che è stato il percorso che per raggiungere questa manifestazione, che comunque è soltanto una tappa di quello che verrà della lotta contro la fine dei giovanardi. Ok? Ok, grazie. Ti passo, ve la passo. Ciao, ciao. Perfetto, a dopo. Pronto? Eccoci qua, allora, ciao. Ciao, ciao. Ben trovati, insomma, anche una bella giornata, devo dire, per mettere allegria, insomma. Sì, per fortuna, dopo immagino, la pioggia di questi esatto, giorni, immagino sì. Delle facce sorridenti, io lo ripeto sempre, abbiamo questa arte di trasformare le nostre rabbie in enormi sorrisi e creatività, quindi appunto mi immagino suoni, colori, rumore, ma anche tante parole d'ordine anche, cicciose. Sì, sì, sì, certo, certo. Allora, guarda, il tutto, non so se, insomma... E lo sapete, però nasce dal fatto che l'11 e il 12 febbraio la consulta costituzionale si pronuncerà appunto sulla costituzionalità della legge Fini Giovanardi. Probabilmente, ci sono tutte le caratteristiche perché venga dichiarata incostituzionale, infatti tre tribunali sia di Roma che di Torino hanno avanzato questa... hanno portato la legge proprio alla Corte. In vista di questa cosa, ma anche del dopo, perché insomma poi se mai dovesse andare bene questa cosa e fosse cancellata la legge, comunque poi lì il lavoro comincerebbe, perché chiaramente insomma noi siamo per la liberalizzazione di tutte le sostanze, chiaramente partiamo dalla marijuana che ha insomma ormai delle riconosciute caratteristiche terapeutiche riconosciute proprio a livello scientifico, ma insomma vogliamo fare un discorso più generale sui consumi e soprattutto rispetto alla marijuana, sull'autocoltivazione, cioè chiaramente non ci andrebbe bene la legalizzazione con il monopolio, noi vogliamo insomma autoprodurre la nostra cannabis in modo anche da essere sicuri di non finanziare narcomafie, di avere una buona qualità, di poter insomma fare una cosa che ci piace e ci fa stare bene. E per questo insomma oggi c'è tanta gente in piazza, ci sono tanti, ci sono 10 carri, ognuno è una specie di carro allegorico, ci sono tante installazioni, facciamo un percorso fortemente simbolico perché passeremo davanti al Ministero della Salute, al carcere di Regina Coeli e al Ministero della Giustizia. Questo perché, insomma, per ricordare innanzitutto che un detenuto su tre è detenuto per reati connessi all'uso e al consumo e a fini delle sostanze. L'altra grande parte dei detenuti è in carcere per la Bossi-Fini, quindi la legge sulla migrazione. E noi sinceramente speriamo che queste due leggi vengano abolite al più presto, e comunque noi vogliamo fare un percorso dal basso rispetto anche a tutta la questione dei consumi, dell'autocoltivazione. Vogliamo essere anche propositivi rispetto alle nuove proposte di legge che insomma stanno girando, che nessuna delle quali insomma ci rappresenta appieno. E quindi insomma oggi non è che una tappa, appunto, perché poi saremo l'11 o il 12 di fronte anche alla consulta con qualche iniziativa performance, eccetera. Tra l'altro il mondo, diciamo, in diverse zone si sta aprendo, certo, su questo discorso, certo. Stanno facendo dei, insomma, io non posso che chiamarli progressi, probabilmente semplicemente trovano nelle loro istituzioni qualcuno un po' più illuminato invece che terrorizzato, no? In Italia si parla delle, sì, droghe. Prima eravamo in collegamento con una compagna dalla Spagna, perché appunto ci sono state tante azioni delle donne in merito alla legge sull'aborto. Allora è come se queste tematiche si trattassero e in Italia non ci fosse anche solo la paura di nominarle, no? Comunque se si parla di droghe. Noi abbiamo una cultura poi insomma che è fortemente influenzata dal cattolicesimo, dalla nostra classe politica, insomma molto spesso è succube proprio di questo tipo di modelli culturali, quindi è chiaro che insomma il discorso è a 360 gradi, è sui diritti, è sulla possibilità di scegliere come nascere, come morire, qual è il fossile di vita, che cosa fare e così via. E questi diritti naturalmente stanno a fianco ai diritti quelli primari e essenziali, che in questo momento comunque ci sono abbastanza negati, no? Esatto. Tra l'altro vedevo che tra le tante firme sotto, diciamo, il comunicato tra virgolette ufficiale, insomma, di indizione di questa manifestazione, ci sono veramente diciamo anche associazioni molto diverse tra loro. Partiamo dai centri sociali fino per esempio ad associazioni che vedono delle persone malate che rivendicano invece il diritto di volersi curare nel modo che hanno trovato loro più affine. È un po' come se uno dicesse che invece dell'aspirina sta meglio con l'aranciata dell'albero d'arancio che si coltiva nel proprio giardino. Quindi è come se si proibisse la persona con raffreddore a farsi la spremuta, ma la se obbligasse a usare l'aspirina, ecco, diciamo. Certo, infatti, perché appunto poi sull'uso terapeutico ormai, aspetta che no, sta passando il primo carro d'apertura, e vabbè, diciamo, sull'uso terapeutico di questa pianta ormai è accertato, non è proprio negabile. E quindi questo è uno dei tanti aspetti, insomma, chiaramente, che in effetti noi vorremmo fare anche un discorso di marijuana bene comune, no? Così come si fa con l'acqua, con gli altri beni della terra, e così è, insomma. Va bene, io non so se ci sono delle cose che tu vuoi aggiungere, vuoi approfittare per aggiungere. Guarda, adesso non lo so, non mi viene in mente niente. Vabbè. Comunque ecco, sicuramente a parte oggi, però ci risentiremo anche nei prossimi giorni per questo appuntamento della consulta, e speriamo insomma che venga cancellata questa legge. Poi continueremo a lavorare sulla tematica lo stesso, ovviamente anche di più. Va bene, okay. Allora noi casomai ci risentiamo più tardi verso la chiusura. Io ti ringrazio tantissimo, un buon corteo. Ciao, grazie a te, grazie. Ciao. Ecco, appunto, ripetevamo che sono tante le sfaccettature in cui si possono riempire veramente di contenuti, le parole d'ordine di questo corteo. Io adesso non so se il nostro reporter ufficiale ci attende al telefono, direi di no. Quindi io intanto vi ricordo che appunto il corteo è più o meno in via dei Cerchi verso Trastevere, per chi lo volesse raggiungere. Io intanto vi rilascio a un po' di musica e ci sentiamo tra breve. 80 quintali.